In ascensore. Qualche minuto più tardi. L'hotel è bello. Sì. È molto bello. E molto antico. Del XIII secolo. 13? Well, I hope the bathroom's più moderno. I love the English sense of humor. Especially in a beautiful woman. No. Il bagno non è antico, è modernissimo. Buonasera. Scusi, siamo al quarto? Al quarto? Sì, è il quarto piano. Siamo al quarto. È il suo piano, Sara. Andiamo? Oh, right. Grazie, buonasera. Di niente, buonasera.